pioggia cade in questa notte, ha bagnato la mia Vespa, che asciugo con un calzino. Dalla porta del bar jazz il suono di un vecchio crash saluta il tuo sorriso. Piove sul mio foglio bianco e scioglie l'autobus che ci porta in centro. Non è ancora buio, ci scopriamo il collo dalle sciarpe, saltiamo giù. In fila al palazzetto, quello dello sport, mi guardo un po' intorno e scappi via. Il tuo profumo, camminiamo tra tabacco e vino, c'è il tuo profumo su questa strada, su questa macchina da scrivere. Casa tua, i miei sandali rivolti a sud. Il pesco ormai fiorito ti fa ombra mentre fai collane con fili d'erba. Le foglie gialle cadono su una canzone, sui tiri ad una sigaretta. Passar delle stagioni, il cambio alla dispensa, il mio ritmo è un controtempo. Ma un controtempo, in fila al palazzetto, quello dello sport, mi guardi e scappi io via, via. Camminiamo tra tabacco e vino, c'è il tuo profumo. Camminiamo tra tabacco e vino, c'è il tuo profumo su questa strada.